Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano, buonasera. Stasera parliamo di prudenza. Prudenza è il titolo del libro di Stefano Zamani ed è un libro che non parla, come potrebbe sembrare a prima vista, della virtù sulla circolazione stradale. Essere prudenti è una dote importante di chi guida, ma parla di economia, parla di società, parla di prudenza come la virtù del guardare lontano. Buonasera Stefano Zamani. Buonasera a tutti voi, grazie. Stefano Zamani insegna economia politica all'Università di Bologna, alla Johns Hopkins University, ha scritto molti libri per il mulino, l'avarizia, la cooperazione, l'economia civile. Ecco, perché parlare di prudenza in questa fase del sistema economico e sociale? Stefano Zamani. Perché nel corso dell'ultimo quarto di secolo, in maniera del tutto inaspettata, le attenzioni dei più, coloro i quali si dedicano sia all'attività economica che a quella politica, è stata attratta dalla necessità di recuperare questa antica virtù che fino al 1500 aveva dominato la scena. Non dimentichiamo che prudenza in greco si dice phronesis, che vuol dire anche saggezza. Il prudente è una persona saggia, che è diverso dall'intelligenza. Uno può essere intelligente ma non saggio. Ed è sempre stata considerata la virtù di coloro i quali devono guidare altri, o in politica o in economia. Il mutamento avviene nel 1500, verso la fine, con Machiavelli, quando Machiavelli derubrica la prudenza da virtù a mera tecnica per la gestione del potere. E da allora è iniziato un lungo tragitto che è arrivato fino, come dicevo, a un quarto di secolo fa, per cui in economia il prudente è il fifone, il timoroso, quello che non prende decisioni perché teme di sbagliare. In politica il prudente è il politico che guarda alle prossime elezioni e non alle generazioni future. Diceva il grande De Gasperi, la differenza tra il politicante e lo statista è tutto qui, eccetera. Ora, la domanda che tutti si pongono è come mai in quest'ultimo quarto di secolo ci si sta avvicinando ad recuperare l'antica concezione della prudenza. Per direi ci sono diversi motivi. Quello che più forse rileva è il seguente, che si è cominciato a capire che differenza c'è tra un problema di scelta e un problema di decisione. Noi sappiamo che nei nostri paesi occidentali, in Italia soprattutto, negli ultimi 25-30 anni abbiamo registrato un calo del tasso di imprenditorialità. Come mai diminuiscono le imprese e il tasso di imprenditorialità anno dopo anno diminuisce? Mentre ad esempio non diminuisce il tasso di managerialità. Cioè non è che ci difettino i manager, quello che a noi fa difetto sono gli imprenditori. E il manager è una cosa, certo. Il direttore è un'altra. E la differenza è questa. Che il problema di scelta è un problema che consiste nel selezionare l'opzione migliore tra quelle già note sulla base di una certa regola. L'esempio che io faccio un po' per beneficio degli studenti è quando andiamo al ristorante, il nostro è un problema di scelta. Il cameriere ci porta il menù, leggiamo le alternative e scegliamo quella che massimizza le nostre preferenze, eccetera. Quello è un problema di scelta. Il problema di decisione si pone invece quando io non ho una regola per operare una selezione, quando cioè la situazione è talmente innovativa o diversa dal passato per cui non ho un criterio per agire. E allora ecco perché si blocca l'imprenditorialità, perché il vero imprenditore è uno che quando comincia non è guidato da una regola già predefinita, è un po' come il grande esploratore che non sa mica dove arriverà al termine del suo viaggio, però intraprende il viaggio. E noi oggi in Italia soprattutto abbiamo questo fatto, che abbiamo troppo poco. Perché? Perché abbiamo negli ultimi decenni dimenticato di educarci alla virtù della Ecco, prudenza. Qui è un punto importante, educare i giovani in una società che sta cambiando rapidamente a prendere delle decisioni. Qui le responsabilità delle università, delle scuole sono particolarmente importanti. È grande, e noi economisti, che è la categoria, la professione alla quale appartengono, abbiamo grosse responsabilità. La teoria economica non ha una teoria della decisione. Molti lo usano perché non sanno la differenza che c'è tra decidere e scegliere. La teoria economica ha il grande merito di averci insegnato a scegliere, la teoria delle scelte, la scelta del consumatore, la scelta del produttore, ma la teoria delle scelte interessa chi? Interessa il manager sceglie, perché? Perché ha una, diciamo, un menu, un insieme di scelte e sceglie l'opzione migliore. Ma noi abbiamo bisogno oggi di imprenditori veri, perché siamo nell'epoca della quarta rivoluzione industriale. La terza rivoluzione è stata quella dell'informatica, del digitale, ma questa è ormai già superata. La quarta rivoluzione industriale è quella che mette assieme l'informatica, le biotecnologie, la fisica, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di soggetti che, pur non avendo già un criterio per decidere, sono guidati dalla virtù della prudenza, che, come lei ha ricordato in apertura, è la virtù del volere guardare lontano, la capacità di iniziare, altrimenti non ne verremo fuori, continueremo ad attribuire il colpe a questo o quell'altro fattore, ma il vero problema dell'economia italiana è che oggi soffre di imprenditorialità, non si fa innovazioni di rottura, cioè le innovazioni non sono solo quelle di prodotto e di processo, quelle le fanno i manager, ma l'innovazione di rottura, si chiamano così in inglese disruptive innovation, li può fare solo l'imprenditore, perché il manager non vuole accollarsi il rischio di sbagliare. Ecco, ma in questa prospettiva, appunto, essere prudenti vuol dire ampliare i propri orizzonti, non vuol dire restringerli, vuol dire ampliare gli orizzonti e pensare anche a una società che non è completamente razionale, perché la razionalità è una logica che guida le scelte, ma non potrebbe non guidare le decisioni, non potrebbe guidare, appunto, la possibilità di fare delle cose che abbiano la loro creatività. Professor Zamani. È vero. Bisogna a questo punto distinguere che ci sono due paradigmi di razionalità. È colpa sempre nostra che insegniamo solo uno. C'è la razionalità cosiddetta strumentale, in inglese rational choice, infatti vuol dire scelta razionale. In questo gli americani sono corretti, scelta razionale, non è la decisione razionale. E c'è il paradigma della razionalità espressiva. Allora, per decidere bisogna fare appello alla razionalità espressiva, per scegliere basta la razionalità strumentale. Qual è l'esempio che anche nel libro di cui qui si parla ho utilizzato per far capire il punto? La differenza tra la razionalità di Ulisse e la razionalità di Orfeo. Ulisse vuole ascoltare il canto delle sirene, sa che è pericoloso per le note ragioni, si fa legare al palo e impone ai suoi rematori i tappi di cera alle orecchie. Quindi Ulisse è razionale perché ottiene il risultato di ascoltare il canto, però a quale prezzo? Primo, di perdere per un po' di ore la libertà, perché quando uno è legato a un palo non è libero. Secondo, di un'ingiustizia, perché lui, birichino, gode del canto, ma ai suoi non li fa godere perché gli ha imposto i tappi. Orfeo invece è l'esempio, il mito in senso platonico, della razionalità espressiva. Quando Giasone con i suoi argonauti decide di andare alla ricerca del vello d'oro, decide di mettere in barca anche Orfeo. Orfeo era uno buono quasi a nulla, sapeva solo suonare però divinamente la cetra o la lira. Ebbene, vince la resistenza dei suoi compagni Giasone, che non lo volevano. Diceva: noi abbiamo bisogno di qualcuno che sappia remare. Ma lui dice: lasciate fare me. Quando arrivano in prossimità dell'isola delle Sirene, Orfeo tira fuori la sua lira e comincia a suonare. E cosa succede? Che il suono veramente celestiale di Orfeo, miscelandosi al canto delle sirene, annulla l'effetto perverso che le sirene avevano ricevuto come dannazione degli dèi. Allora, quando io dico alla gente, in particolare ai miei studenti, secondo voi chi è più razionale, Orfeo o Ulisse? Tutti mi dicono Orfeo. Dico: e allora perché non fate altrettanto? E perché Orfeo è più razionale? Perché lui, anche lui ascolta il canto, però non perde la libertà e soprattutto non commette un'ingiustizia. E perché ci riesce? Molto semplice, perché applica il principio di reciprocità. Perché Orfeo prima offre con un dono, perché non era tenuto, il suono, la musica alle sirene, e loro reciprocano con il loro canto privato, depurato della condanna che gli dèi avevano commesso. Ecco allora il punto: il vero imprenditore è che sa decidere, è quello che pratica la reciprocità. Io non ho mai visto un imprenditore vero, nel senso che ho chiarito, che sia autointeressato, che pensi solo a se stesso, mai. Il vero imprenditore è una persona che ha come mira sicuramente il bene proprio, l'interesse proprio, e non c'è nulla di male, ma anche l'interesse degli altri. E quando questo avviene vengono fuori delle cose grandiose. E la storia degli imprenditori italiani, inutile fare i nomi, li conosciamo, cito solo uno perché è scomparso da tempo, Olivetti. Perché Olivetti aveva successo? Perché non era uno che applicava soltanto la logica dell'interesse proprio. Certo. Faceva i propri interessi, ma anche quello della comunità di riferimento. Ecco, nel libro si comportava come Orfeo. C'è appunto un esempio molto, molto, molto semplice, che è quello dell'arco. Lei scrive: mi piace immaginare la prudenza come la corda tesa di un arco. La corda è la spinta, l'arco è il freno. La realtà è che, non rompendo la corda, le permette di tirare frecce verso il futuro. E poi dice: quando c'è prudenza, la prudenza rende armonica la vita. Questo concetto di armonia è qualcosa forse che andrebbe recuperato in una realtà così tumultuosa come quella attuale, in cui le innovazioni tecnologiche sembrano lasciare appunto sconcertati. Per concludere, Stefano Zamagni. Sì, perché in effetti è vero, in ognuno di noi ci sono due tendenze: la stima di sé, che se non viene moderata dalla prudenza porta al narcisismo e alla superbia, e il desiderio della stima degli altri. Cioè, noi non vogliamo solo stimare noi stessi, ma vogliamo, come diceva Adam Smith, sapere che gli altri ci stimano. Ma il desiderio della stima degli altri, quando è esagerata, conduce all'invidia e alla vanità. E questi sono atteggiamenti distruttivi. Pensiamo quanta gente in giro è narcisista e invidiosa. E l'invidia è il peggiore dei vizi capitali, perché distrugge il capitale sociale. Ebbene, la prudenza è la virtù che tiene a bada questi due deviamenti. Cioè, fanno male, secondo me, coloro i quali dicono dobbiamo rinunciare alla stima, ci mancherebbe altro. Se io perdo la stima in me stesso non riesco più a funzionare. Però bisogna bilanciarla. In questo senso la prudenza è come l'auriga di cui parla Platone nel Fedro, quando dice: il solco sarà diritto e raccolta abbondante se i due cavalli che trainano l'aratro procedono alla stessa andatura. E chi li fa procedere è appunto l'auriga. E l'auriga è, nel greco antico, il phroninos. Phroninos voleva dire la persona prudente. Abbiamo bisogno di phroninos se vogliamo uscire dalle secche anche economiche e sociali di questa fase storica. Grazie per questo richiamo, Stefano Zamagni. Abbiamo bisogno di prudenza, abbiamo bisogno di armonia, abbiamo bisogno di equilibrio, abbiamo bisogno anche di riscoprire appunto queste virtù profondamente umane in una società appunto che è forse un po' troppo tecnologica. Abbiamo parlato con Stefano Zamagni del libro Prudenza, edito dal Mulino, 128 pagine, 12 euro, leggetelo e fatelo leggere. Grazie appunto a Stefano Zamagni, anche a Paolo Corleone in regia, Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.